Questo editoriale di oggi è invece a firma Roberto Beccantini e campeggia sulla copertina della Stampa di stamane. Le bombe carta dei teppisti, bianconeri soprattutto, che hanno determinato la sospensione provvisoria di Juventus-Parma, certificano la vittoria degli ultra, l'ennesima. Le porte chiuse di Marassi, viceversa, documentano la sconfitta dello Stato, l'ennesima. Non si può vivere sempre il regime d'emergenza. L'agguato mortale che coinvolse Vincenzo Spagnolo, accoltellato da un ultra rossonero a poche ore da Genova a Milan, risale a 15 anni fa. Ripeto, 15 anni fa. Giuramo sulla tomba dell'ispettore Raciti che noi addetti ai lavori avremmo fatto tesoro dei loro sacrifici. Non sembra proprio. Tornelli a parte. È il solito calcio all'italiana, isterico, solitario, i final. Dalla farsa di Lazio-Inter alla guerra di Roma-Inter, passando attraverso ogni genere di provocazione e aggressione, concorrere per gli europei del 2016 e nello stesso tempo non riuscire a garantire la sicurezza dei cittadini, lo trovo francamente un non senso e giro la perplessità al presidente Abete. Non sarebbe più opportuno curare prima il sistema? Però è vero, soltanto noi abbiamo varato il labiale TV anti bestemmie, ma credo e temo che i vandali abbiano altre priorità.